Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Questa storia inizia in un luogo che forse avete già visitato. Questa storia, per la precisione, inizia in uno studio di registrazione, dove forse voi siete già stati e dove certamente è già stato l'autore della canzone che sentite in sottofondo. Badate bene, chi ha scritto questa canzone non è la stessa persona che la canta. È il 1978 e siamo al 321 West della 44esima strada, nelle stanze dei Record Plant Studios di New York City. Il grande Bruce Springsteen, insieme alla sua E Street Band, sta lavorando al suo quarto album intitolato Darkness on the Edge of Town. Nella stanza accanto, come spesso accade nei grossi studi di registrazione, ci sono altri musicisti intenti a lavorare su altri progetti. Non è raro che capiti in posti come questo di incontrarsi nei corridoi e scambiarsi idee, consigli, impressioni sul lavoro che si sta svolgendo. È una giornata no per Springsteen, che non è pienamente soddisfatto di quello che sta incidendo. Non è troppo convinto, in particolare, di un pezzo che ha scritto con le sue stesse mani, eppure, per una qualche ragione, non riesce a sentire completamente suo. Il produttore Jimmy Iovine ha un'idea. Porta la demo tape di quel pezzo intitolato Because the Night nella stanza accanto, la stanza dove è a lavoro un altro team di musicisti guidati da un'intrepida ragazza dai capelli arruffati. Lei, come suggerito le da Iovine, si infila in tasca la cassetta in maniera vagamente distratta. Forse l'ascolterà più tardi, forse chissà, se ne dimenticherà. Di certo c'è solo che quella giovane donna non sa ancora che in quel nastro sono contenuti i semi di uno dei suoi più grandi successi. Lei, naturalmente, e Patti Smith. Sapevo che non avrei finito quella canzone, perché era una canzone d'amore, ed io in quel momento non avevo testa per completare né poi per cantare una canzone d'amore. Insomma, una vera canzone d'amore, struggente, sentita, come Because the Night. Diciamolo pure, forse ero troppo codardo in quel periodo per dedicarmi ad un pezzo simile. Ma lei invece era temeraria. Lei ce l'ha avuto il coraggio. Ecco cosa ci voleva. Il coraggio della voce di una poetessa contemporanea dall'anima apparentemente fragile, ma in realtà piena di energia, che ha trovato la propria strada all'incrocio tra la poesia e il rock and roll. È lei che ha saputo rendere magnifiche le note struggenti di Because the Night, note che al loro compositore Bruce Springsteen non suonavano giuste finché non le ha sentite cantare da Patti. Un magnifico destino quello del boss, che si incrocia perfettamente con quello della Smith, una delle figure femminili più iconiche del mondo rock. Una donna che nel 2007 è stata ammessa tra i miti della prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame. Un riconoscimento notevole, tanto più se si pensa che non molte ragazze prima di lei hanno avuto la fortuna di entrarne a far parte, schiacciate come sono in mezzo a una netta preponderanza di individui di sesso maschile. Una bella soddisfazione per Patti. Il coronamento di un percorso artistico e umano davvero intenso, iniziato molti anni prima, durante una notte di tempesta. I was born in Chicago. Sono nata a Chicago, nel cuore dell'America, nel bel mezzo di una bufera di neve, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In una notte fredda e inospitale come questa, un taxi costeggia il lago Michigan arrancando in un turbinio di neve. A bordo dell'auto ci sono Beverly e Grant, una cameriera e un operaio poco più che ventenni, infreddoliti, spaventati. Beverly è al nono mese di gravidanza e vorrebbe tanto che non le si fossero appena rotte le acque. Vorrebbe che la sua bambina aspettasse ancora un po' per venire al mondo, basterebbe solo qualche ora. Quello è il penultimo giorno dell'anno e Beverly sa bene che i nati il 31 dicembre tornano a casa dall'ospedale con un frigorifero nuovo. Un regalo di buon auspicio, decisamente utile per chi non ha certo tanti soldi da spendere. D'altronde, cosa ci vuoi fare? La guerra è appena finita, il boom economico è ancora lontano, ma la bambina che Beverly porta in grembo è già terribilmente cocciuta e decide di fare di testa propria. Non le importa del frigorifero, dei postumi bellici, né tantomeno di quel freddo cane. L'istinto di qualunque altra creatura imporrebbe di restarsene ancora per qualche ora al calduccio del ventre materno, anziché venire al mondo scontrandosi con le temperature polari di un inverno di Chicago. Ma lei è diversa. Questa bambina è una bambina speciale. È così che il 30 dicembre del 1946, senza un frigorifero nuovo, ma in compenso con una lieve forma di broncopolmonite, nasce l'esserino lungo e scheletrico che risponde al nome di Patricia Lee Smith. Patty è una bambina testarda e precoce per natura. Basta pensare alla cocciutaggine con cui ha deciso di venire al mondo in mezzo alle folate ghiacciate di un dicembre nella città ventosa. È proprio così che viene chiamata in tutto il mondo la capitale dell'Illinois, Chicago. E la temerarietà, forse inconscia, con cui decide di venire al mondo, si riflette subito nell'innata testardaggine che già da piccolissima le impone di essere sempre un passo avanti. Patty impara a leggere ancor prima di andare all'asilo. Comincia coi libri di favole e poi inizia a divorare racconti, romanzi e perfino saggi. Ossessionata dalla smania e dall'utopia di arrivare a leggere tutti i libri che siano mai stati scritti, cogliendone il significato più intimo e usando ciascuno di essi come un minuscolo ma fondamentale tassello per approdare alla conoscenza dei misteri dell'universo. Un programma decisamente ambizioso per una ragazzina, una giovanissima figlia dell'immediato dopoguerra che crede che la meticolosa costruzione di se stessi, della propria interiorità, porti a risultati grandiosi. Non può che essere così, per parte. Ma le velleità e i sogni dell'assidua lettrice si scontrano con la dura realtà dei banchi di scuola. Ero una bambina sognante, a volte addirittura sonnambula. La mia precoce, precocissima capacità di lettura si univa alla manifesta incapacità di svolgere una qualunque attività pratica. E questo faceva letteralmente imbestialire i miei insegnanti. Uno dopo l'altro annotavano con crescente fastidio nella mia pagella quel mio fantasticare ad occhi aperti, quel mio essere sempre altrove. Per loro ero una buona nulla. Bistrattata dagli insegnanti, per fortuna Patty trova conforto nei libri. Si ispira a Jo March, la ragazza maschiaccio di Piccole donne di Louisa May Alcott, che nei duri anni della guerra civile si dava alla scrittura per far quadrare i conti della famiglia in difficoltà. Anche Patty, come la protagonista del romanzo, inizia giovanissima a scrivere. Intreccia storie e racconti a beneficio di fratelli e sorelle che l'ascoltano rapiti, estasiati. Ancora non sa che quei meravigliosi grovigli di parole un giorno saranno la fonte di sostentamento della sua anima e del suo stomaco d'artista. Per il momento, però, non bastano certo a soddisfare i suoi bisogni, né quelli della sua famiglia. A 16 anni ho trovato lavoro in una fabbrica. Patty fa i piccoli turni in una piccola ditta vicino a casa. Il suo compito è quello di ispezionare manubri per tricicli, non esattamente un lavoro edificante dal punto di vista intellettuale. Non è che lei non sia disposta a sporcarsi le mani, come si suol dire, ma quello della catena di montaggio in fabbrica è un mestiere lontano dalle aspirazioni alte, letterarie e artistiche di cui si nutre da sempre la sua fantasia. La vita di provincia comincia a starle stretta, troppo stretta. La desolante provincia del New Jersey, in cui da qualche anno si è trasferita insieme alla famiglia, non è un posto particolarmente esaltante. Forse è giunto il momento di cambiare aria. La vista dell'Empire State Building, per chi non lo ha mai ammirato dal vivo, è una specie di rivelazione. È uno dei simboli, delle icone dell'avvento della modernità nella cultura occidentale, un po' come la Tour Eiffel a Parigi. Non sono molti i posti al mondo che riescono a evocare con la loro nuda presenza il senso del progresso che ha travolto la nostra società tra l'Ottocento e il Novecento. Anche Patty ne è affascinata. Quando sono arrivata a New York City, si poteva andare dappertutto. Ogni posto sembrava tranquillo e privo di pericoli. L'Empire State Building mi sembrava l'ago ipodermico di Dio. Era tutto così bello, tutto così pieno di infinite possibilità. Up there is a bowl of fire. Some call it the spirit, some call it L'Empire State Building è un dito irriverente, un indice puntato al cielo quasi per sfida, come estrema e definitiva dimostrazione delle infinite possibilità dell'uomo moderno. Dall'alto della sua inaugurazione, tenutasi nel 1931 a ridosso della tremenda crisi economica che ha squassato l'America intera e fino all'avvento delle Torri Gemelle nel 1973, l'Empire State Building ha conservato il primato di grattacielo più alto del mondo. 42 anni di record, 42 anni passati a scrutare il mondo dall'alto, ad osservare l'incessante brulicare della vita ai suoi piedi. E ai suoi piedi, un caldo mattino dell'estate del 1967, approda anche la ventenne Patty, convinta che quella città, più di qualunque altra, potrà cambiare il corso della sua esistenza. New York è la città che mi ha sedotta. New York è la città che mi ha formata. New York è la città che mi ha deformata. New York è la città che mi ha corrotta. New York è la città che mi ha convertita. New York è la città che amo. Questa è la mia piccola preghiera per New York. Patty si trova ai piedi dell'Empire State Building e a un passo dai suoi sogni. Con sé ha soltanto una minuscola valigia scozzese, una copia di Illuminazioni di Arthur Rimbaud e la divisa da cameriera che sua madre le ha lasciato, ben stirata, piegata, pur sapendo benissimo che quello di servire ai tavoli non sarà certo il destino di sua figlia. Non sarà una cameriera, ma piuttosto una commessa in libreria. E questo è il primo impiego che riesce a trovare e dopo tutto non è affatto male. I libri sono sempre stati la sua passione. Da bambina andava più d'accordo con le pagine dei romanzi che con i compagni di scuola. Il lavoro come commessa in libreria le basta a malapena per comprarsi da mangiare. Di certo non è sufficiente per procurarsi un tetto sotto il quale riposare. Le tocca arrangiarsi come può, spesso, troppo spesso. Le capita di dormire nascosta dentro lo sgabuzzino nel retro del negozio. Eppure è proprio grazie a quella libreria di Manhattan, a quello stipendio misero e agli sguardi compassionevoli dei colleghi e dei clienti che Patty farà uno degli incontri più straordinari e più formativi della sua vita. Vivevo nei bagni della libreria in cui lavoravo. C'era questo ragazzo che mi ronzava intorno e voleva portarmi fuori a cena. Io ero talmente affamata che ho accettato il suo invito, anche se non mi piaceva. Abbiamo cenato e poi io ho cominciato ad avere una brutta sensazione. Ero come pietrificata, non potevo scappare perché non avevo un posto, una casa in cui tornare. E il mio corteggiatore voleva a tutti i costi che io salissi da lui a bere una cosa, sai come vanno queste cose, no? E io ero terrorizzata dall'idea. E proprio mentre me ne stavo lì, immobilizzata, a pensare a come levarmi da questa situazione, è successa una cosa, è come se gli angeli avessero aperto un portale sulla terra ed è uscito quest'altro tizio che avevo incontrato un paio di volte in libreria. Gli sono corsa incontro e gli ho chiesto tutto di un fiato: ti ricordi di me? E lui: certo. E io gli ho detto: ti andrebbe di far finta di essere il mio ragazzo? E lui mi fa: certo. Un misterioso amico, una specie di angelo custode capitato al posto giusto nel momento giusto, salva Patty dalle sue paure. Finge con maestria di essere il suo gelosissimo e furioso fidanzato e la trascina via di lì in men che non si dica. I due, quella notte, vagano per la città sonnambula e quasi deserta in cerca di un rifugio. Nemmeno il nuovo amico di Patty ha un tetto sotto il quale riposare. Certo, non hanno un posto dove stare, per il momento non hanno un focolare e nemmeno un banale materasso sul quale rannicchiarsi. Ma sanno fin dal primo istante di poter contare l'uno sull'altra. Questo giovane uomo diventa subito il suo migliore amico, il suo confidente, la sua metà, nonché l'organo propulsore di tutte le sue aspirazioni artistiche. Il primo magnifico destino che si incrocia con quello di Patty Smith è di questo ragazzo, un ragazzo fragile che ama la fotografia e risponde al nome di Robert Mapplethorpe. Una delle cose per cui mi sento più fortunato è che ho vissuto il fermento di quegli anni, prima dei 60 quando ero studente, poi tutti i cambiamenti che sono seguiti. Sono stato fortunato perché mi trovavo qui, a New York. New York è il teatro della presa di coscienza, dell'esplosione del talento multiforme di Patty. Dividere un tetto insieme a Robert Mapplethorpe significa condividerne le ossessioni e i metodi. Significa restare alzata notti intere china su un tavolo a disegnare, trafficare coi pennelli, esaminare fotografie o fantasiose composizioni scultoree. Di giorno si lavora per sfamare la bocca e di notte per sfamare l'intelletto. La vita non è semplice. Gli impieghi precari fanno sì che fame e difficoltà siano sempre in agguato. Ma Patty è finalmente libera. Del resto, la New York a cavallo fra i 60 e i 70 è davvero un luogo che libera infinite esistenze e dischiude illimitate possibilità. E pazienza, se per Patty l'idea di fare musica è ancora lontana, per ora ci sono la pittura, la letteratura, la poesia. Alla musica ci arriverà alla fine di un percorso, di una strada artistica complessa. Patty e Robert, dopo aver diviso per qualche tempo un appartamento sgangherato, l'unico che si potevano permettere, si trasferiscono a vivere al Chelsea Hotel, storico albergo newyorkese situato al numero 222 della 23esima strada. Il Chelsea Hotel è un vitale e bizzarro crocevia che ha visto camminare nei suoi corridoi personalità del calibro di Jack Kerouac, Bob Dylan, Charles Bukowski, Janis Joplin, tanto per citarne alcune. Patty e Robert traslocano nella stanza 1017 nel tardo 1969. Giusto un anno prima, in una di quelle stesse camere anguste ma brulicanti di energia creativa, oltre che di un discreto numero di insetti, un tale di nome Arthur C. Clarke ha finito di scrivere il suo 2001 Odissea nello spazio. Tutto quel fervore creativo non può che contagiare i nuovi inquilini. Mentre Mapplethorpe si dedica alle sue fotografie, Patty scopre pian piano nuove passioni. E proprio Robert, un po' per gioco, un po' per caso, a instradarla sulla giusta via. Robert mi regalò un tamburello per il mio 21esimo compleanno. Ci tengo molto. Quel tamburello, di fatto, è molto più di un semplice strumento a percussione. Quell'affare tondo rappresenta, manco farlo apposta, l'anello di congiunzione tra Patty e l'universo della musica. Lei inizia a stringerlo tra le mani, a giocare all'arci, a scandire la declamazione delle sue poesie, battendo il ritmo su quel pezzetto di legno a sonagli. È solo un inizio, certo, ma un inizio che sa di promessa. I magnifici destini. Patty Smith è una ragazza poco più che ventenne che all'inizio degli anni 70 vive in una stanza del Chelsea Hotel di New York. Tra quelle stesse pareti hanno vissuto e amato icone femminili come Bette Davis o Janis Joplin. Un posto magico, un luogo dove transitano continuamente artisti di ogni sorta. Patty, per esempio, divide la sua stanza con un amico fotografo, Robert Mapplethorpe. Le è capitato di incontrare anche diversi musicisti fra quei corridoi e quelle stanze. In più, Robert, tempo prima, le ha regalato un tamburello. Forse è proprio questo oggetto a scatenare a un certo punto l'interesse di Patty per la musica. Dopotutto, lei scrive poesie da una vita, fin da quando era bambina. Che cos'è, in fondo, una canzone se non una poesia sposata a delle note musicali? Che sia chiaro, non è che prima la musica non le fosse mai interessata, tutt'altro. Fin da ragazzina Patty è un'avida ascoltatrice, capace di spaziare dalle voci aggraziate di Maria Callas e Billie Holiday alla ruvidezza di Mick Jagger, passando per le derive psichedeliche dei Doors e dei Jefferson Airplane. Ma qui si tratta di fare musica, non semplicemente di sentirla. E in questo suo strano processo di formazione musicale c'è un altro evento che rappresenta un punto discriminante. L'arrivo del tutto inaspettato della sua primissima chitarra. Anzi, meglio ancora, l'arrivo di un uomo, di un nuovo magnifico destino munito di chitarra. Che cosa si può volere di più? Questa è una bella chitarra. Credo che sia una Gibson del 1931, un modello venuto direttamente dalla Grande Depressione. Sam Shepard me l'ha regalata nel 1971 e io l'ho chiamata Bo. Mi sono comprata un libro di canzoni di Bob Dylan e ho imparato un paio di sue canzoni. Solo canzoni che potessi suonare con 5 accordi, come questa, ad esempio. Where you been, my blue-eyed son? Where you been, my blue-eyed son? Il principe azzurro munito di chitarra anziché di cavallo bianco risponde al nome di Sam Shepard. È un giovane brillante, pieno di energia e di idee, e anche lui frequenta spesso e volentieri le stanze fumose del Chelsea Hotel. Patty non può fare a meno di invaghirsene, ma non solo per il suo bell'aspetto, e per quell'irresistibile commistione, quella confluenza di energie creative che lo attraversano e che lui riversa inevitabilmente anche sugli altri, su chi gli sta accanto. Patty non può che esserne entusiasta. Sam era... Era tutto quello che una donna potesse volere. Era, ed è ancora, un bellissimo uomo. E poi aveva un magnetismo distinto, una cosa quasi animale, una cosa viscerale. Era pieno di energia e aveva questo guizzo incredibile negli occhi. Era nato per il rock and roll, o almeno a me sembrava così. Quando l'ho conosciuto, non avevo la più pallida idea di chi fosse. Faceva il batterista in una band, gli Holly Modal Rounders, ed era davvero molto, molto bravo. Shepherd è un bravo musicista, ma di certo non si limita solo a quello. La musica non è la sua unica passione, ma proprio come accade a Patty, è attratto dalle arti in generale e dal clima di fermento creativo che permea molti luoghi della New York di quegli anni. È interessato alla scrittura e in particolare alla sceneggiatura. Ha già realizzato un po' di lavori per il teatro ed è persino accreditato come co-sceneggiatore in Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni. Quando propone a Patty di scrivere insieme a lui uno spettacolo teatrale dal titolo Cowboy Mouth, lei resta piacevolmente sorpresa. Così piacevolmente che, anche se soltanto per una sera, decide di recitarvi lei stessa. Io credevo che lui fosse il futuro del rock and roll. Non avevo mica idea che fosse anche un grande scrittore e commediografo. E così, mentre un'ignara Patty si accorge che il suo principe azzurro con la chitarra in spalla in realtà è più un principe azzurro con la sceneggiatura in mano, succede che sia proprio lei a intraprendere seriamente la strada della musica. Se il futuro del rock and roll non è in mano a Sam Shepherd, può darsi che invece sia in mano a Patti Smith. Di sicuro, c'è che quella sera, quando è salita sul palco a recitare in Cowboy Mouth per la prima volta, Patty ha messo a nudo il suo corpo d'artista davanti a un pubblico. Fino a quel momento le sue poesie, i suoi quadri, i suoi disegni, tutte le sue composizioni erano rimaste un appannaggio esclusivo dei suoi amici, gli stessi che di quando in quando la vedevano strimpellare direttamente sulla sua chitarra nuova, senza nemmeno sapere di preciso come fare a tenerla in mano. Vivevo al Chelsea Hotel e aspettavo di incontrare dei musicisti. Poi gli chiedevo se volevano vedere una chitarra davvero forte, che poi era quella che mi aveva regalato Sam. Loro dicevano che era veramente bella e io gli chiedevo se gli andava di suonarla un po'. Per prima cosa loro ovviamente la accordavano e io così avevo sempre la chitarra accordata. Grazie alla sua breve esperienza in teatro, Patty prende coraggio. Salire su un palco e mettere in mostra le sue abilità ora non la spaventa. Sa anche suonare un po' la chitarra. Certo, forse non è ancora capace di accordarla, ma di certo Patty sa accompagnare i suoni che produce col canto. Il suo amico Robert Mapplethorpe, in effetti, le ha sempre detto di non essere timida, di tirare fuori quella benedetta voce. Ogni volta che lei distrattamente se ne va in giro canticchiando vecchie canzoni di Edith Piaf, lui le ripete di coltivare seriamente l'idea del canto. Non per nulla è stato proprio Robert il suo primo mentore e il suo primo sponsor, la prima persona in assoluto che abbia scorto in lei i chiari segni del fuoco artistico. Lui però di mestiere fa il fotografo e ormai Sam Shepherd è totalmente immerso nella scrittura. Quello che serve a Patty stavolta è un musicista. È una mattina soleggiata a New York. Patty fa colazione in un bar lungo la 23esima strada. Beve caffè nero e legge un po' di giornali. È un rito che adora, che le fa iniziare bene la giornata. Certo, a dire il vero, è già quasi mezzogiorno, non esattamente l'orario in cui inizia la giornata di un operaio o di un impiegato, ma Patty, d'altra parte, è un artista. Anzi, per la precisione, Patty sta cercando di diventare una musicista. Ha capito di voler mettere in musica le sue poesie, le sue parole, i versi che ormai da anni le sgorgano naturali come fossero respiri. Da qualche tempo, tra le sue letture mattutine, ha iniziato a inserire riviste di musica e quel giorno le capita in mano un periodico che si chiama Jazz and Pop. Sfogliandolo, le cade l'occhio su un articolo scritto da un tale che di nome fa Lenny Kay. Ma vi rendete conto che qualcuno come i rappresentanti della Beat Generation, è riuscito a traghettare una cosa come la poesia lontano dai suoi luoghi abituali, lontano dalle università e dalle scuole, lontano dai libri e direttamente dentro la modernità? Questa è una cosa importantissima, una di quelle che ci hanno fatto diventare, in definitiva, ciò che siamo. Patty, leggendo l'articolo scritto da Lenny, intuisce che probabilmente la sua sensibilità è molto affine alla propria. Non sa bene chi sia, conosce solo il suo nome. Non sa nemmeno di fatto che Lenny sia un musicista. Potrebbe essere semplicemente un giornalista, no? Eppure qualcosa le dice che sotto c'è dell'altro. Non le resta che andare a scoprirlo. Chiedendo un po' in giro, Patty viene a sapere che Lenny, oltre a scrivere su una rivista musicale, lavora anche in un negozio di dischi. Allora va a cercarlo lì, naturalmente. Di persona ha modo di accorgersi che Lenny incarna tutto quello che si aspettava e anche qualcosa in più. È un amante della musica, è un musicista, un vero, abile chitarrista. Ed è oltretutto una persona convinta che il confine tra poesia e musica, tra canzone e letteratura, sia davvero troppo sottile perché i due elementi non finiscano col mescolarsi in maniera del tutto naturale. La poesia, per me, non è altro che parole immerse dentro una loro propria musica. Se sei un poeta, ti importa come del ritmo e della melodia delle parole che scrivi, che reciti, che canti. E i migliori poeti si trovano sempre a loro agio con la musica. Con Patty io ho sempre avuto la possibilità di seguire, di assecondare le sue inclinazioni, il suo ritmo e il suo senso dell'immaginazione. E ho sempre cercato di esplicitare tutto questo con la mia chitarra, di renderlo vivo. Tra Patty e Lenny nasce subito una bella amicizia. Lui è la persona giusta per quello che lei ha in mente. Vuole fare un reading delle sue poesie accompagnata dal suono, ora melodioso, ora distorto, ora tenue, ora graffiante, di una chitarra elettrica. Lenny è la persona perfetta per credere nelle infinite possibilità di un simile progetto. E così nascono le prime esibizioni di Patty Smith come cantante e performer. Lenny Kaye e Patty Smith sono i primi componenti di quello che diventerà il Patty Smith Group. I magnifici destini. The mind of a child is like a kiss on the forehead, open and disinterested. It turns as the ballerina turns atop a party cake with frosted tears, poisonous. Manhattan, chiesa di St. Mark. È il 10 febbraio del 1971. Patty Smith, accompagnata dalla chitarra elettrica di Lenny Kaye, fa il suo primo reading pubblico di poesia. La folla degli amici, accorsi numerosi dal Chelsea Hotel e da tutti i luoghi più cool di Manhattan, è estasiata, letteralmente rapita da quello che sta sentendo. Non solo la chitarra di Lenny, ma anche l'atmosfera quella sera è elettrica. Nell'aria si sente che sta per accadere qualcosa. Nell'aria si sente che sta per nascere una stella. Si comincia con parole e versi in libertà, prima recitati e poi cantati. Il destino di Patty come rocker, dunque, non inizia in maniera propriamente canonica. Prima di diventare una paladina del rock, la Smith è innanzitutto una poetessa e una performer. Non parte dalla musica pura, ma dalla recitazione delle proprie poesie ad alta voce, accompagnata da un sottofondo musicale. Da qui all'idea di trasformare in vere e proprie canzoni quei versi così densi di significato? Beh, il passo è decisamente breve. Ho affinato sempre di più questo procedimento finché non sono arrivata alla collaborazione con diversi altri musicisti oltre a Lenny e a suonare davvero in una rock and roll band. È ormai la metà degli anni 70, quando Patty e la neonata rock band che porta il suo nome pubblicano il loro primo disco intitolato Horses. Chi meglio del suo vecchio amico Robert Mapplethorpe può occuparsi di scattare le foto di copertina? E quella di Horses, di fatto, è una copertina che entra subito di diritto nella storia dell'immagine, oltre che in quella del rock and roll. Un mezzo busto di Patty Smith in bianco e nero, camicia candida, pantaloni scuri e bretelle sottili, una giacca appoggiata con fare distratto su una spalla. Semplice, diretta, spoglia come l'approccio, sincero e senza fronzoli della sua protagonista. Quello di Patty è un rock fatto sì di testi lirici e complessi, ma suonato con l'energia e la schiettezza di una performance live, con l'intento di inondare di sensazioni il pubblico e lasciarlo attonito, quasi disorientato. Pubblico e critica, sentendo Horses, gridano al miracolo. Un disco anticipatore di molte cose, dal punk alla new wave fino a certe vene della canzone d'autore. Un disco seminale, in cui seguono nel giro di una manciata di anni altri album altrettanto fenomenali. In un attimo il mito di Patti Smith sboccia e si consolida, e non solo agli occhi del pubblico e della critica, ma anche a quelli di certi illustri colleghi. È una calda sera d'estate a New York. C'è un locale al numero 147 di Bleecker Street che si chiama Other End. L'ingresso è rivestito di legno chiaro e sopra ci sono appuntate decine di volantine manifesti delle band che vi hanno suonato o stanno per suonarvi. Questa sera tocca alla rivelazione del rock Patti Smith a esibirsi in concerto. Lei sente che in quell'aria, nell'atmosfera intrisa di musica e di fumo dell'Other End, c'è qualcosa di insolito e speciale. Ancora non ha idea che si tratti di una presenza eccellente, ma poco dopo, al termine della sua esibizione, avrà modo di scoprirlo. Bob Dylan in persona è passato nel backstage a conoscerla e a renderle omaggio. Per la Smith è un sogno che si avvera. Percepivo un'atmosfera particolare, una speciale elettricità nell'aria, e non sapevo spiegarmi perché. Finché a fine serata in camerino appare lui, il mio eroe, bello, intelligente e sarcastico. Non solo Bob Dylan apprezza il lavoro di Patti, ma la inviterà un giorno a salire sul palco insieme a lui. Dylan non è certo il solo ad accorgersi della bravura della Smith. Nel corso degli anni arriva il plauso di moltissimi colleghi musicisti, da Bruce Springsteen, che le regala la sua Because the Night, a Michael Stipe dei Ram, che duetta con lei nella struggente Ebow the Letter. In tempi più recenti, Patti ha pubblicato un disco di cover di pezzi famosissimi della tradizione rock, da Are You Experienced di Jimi Hendrix a White Rabbit dei Jefferson Airplane. Si è presa anche il merito di aver fatto tornare a far musica Sam Shepard, colui che un giorno le regalò la sua prima chitarra e che nel frattempo è diventato un drammaturgo da premio Pulitzer. Shepard, infatti, l'ha accompagnata col banjo in una versione riveduta e corretta di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. In oltre 40 anni di onorato servizio, Patti Smith ha contribuito a scrivere un bel pezzo della storia della musica. Un percorso tortuoso il suo. D'altronde, nulla è ascrivibile alla pura semplicità di una linea in questo mondo. La vita non è una linea verticale o orizzontale. Ognuno di noi ha un suo mondo interiore che non è lineare. Da qui deriva l'importanza della bellezza della musica, dei suoni, dei rumori. Quando esci per strada, senti il rumore del traffico, della gente che parla, bimbi che ridono, uccelli che cinguettano, il baccano di uno stereo portatile, centinaia di suoni diversi. Tutte queste cose sono potenzialmente belle. La fascinazione dei suoni un bel giorno è diventata il fulcro del lavoro di Patti. Era nata poetessa e si è risvegliata d'improvviso rocker. Ha saputo tramutare in suono tutto ciò che fino a quel momento era stato segno grafico, disegno o inchiostro su una pagina, tracciato a mano oppure battuto con la macchina per scrivere. D'altronde, in lingua inglese, i testi delle canzoni si chiamano proprio lyrics, liriche. Più poetico di così.